Prego, batterista. Me ne vanto, bello suono, me lo canto. Sono un chiuso e me ne vanto, bello suono, me lo canto. Sono nemico del tamarro, passo tutto il giorno al barro. Dopo giuro un motorino, me ne vado dal Torino. Perché sono un truzzo e me ne vanto. Te lo canto perché sono un truzzo e me ne vanto. Te lo canto. Ok, io penso che basti, eh. No.